Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, 250 anni fa si aggirava per l'Italia non un virus ma un grandissimo genio. Il suo nome era Wolfgang Amadeus Mozart, di anni 14 da poco compiuti. Mozart infatti era arrivato in Italia il 13 dicembre del 1769, iniziando un lungo viaggio che dal Salisburgo, la sua città natale, l'avrebbe portato a Vipiteno e Bressanone, Bolzano, Egna, Trento e Rovereto, Verona, Mantova, Milano, dove si sarebbe fermato per quasi due mesi, Lodi, Piacenza e Parma, Bologna, Firenze, Viterbo, Roma, Sessaurunca, Capo e finalmente Napoli, che sarebbe stata la tappa estrema a sud. Da lì, dopo una sosta di più di un mese, Mozart sarebbe risalito al nord per tornare a casa nel marzo del 1771 e per altre due volte sarebbe tornato in Italia visitando altre mete come Brescia e Ala. Il primo in particolare fu un viaggio celeberrimo, appunto il primo di tre compiuti da Mozart, che complessivamente si fermò in Italia 720 giorni e vi percorse 3300 km con 200 cambi di cavalli alle stazioni di posta. Trago questi dati dal volume del musicologo Sandro Cappelletti, letto intitolato Mozart, scene dai viaggi in Italia, pubblicato dal Saggiatore, 350 pagine, 28 euro. In Italia Mozart sarà anche molto prolifico. Vi faccio ascoltare qualche nota di quello che probabilmente è il primo brano che Mozart compose in Italia, cioè l'aria Fra cento affanni, K88, composta su un testo di Metastasio in occasione di un concerto a Milano, a Palazzo Firmiani, il 12 marzo. Lo ascoltate, eseguito da Edita Gruberova, col Mozarteum Orchestra di Salisburgo, direi da Leopold Hager. Wolfgang era considerato un bambino prodigio. Il padre Leopold, che oltre a essere un discreto musicista aveva anche un discreto senso degli affari, secondo Cappelletto, il padre, dicevo, voleva mettere a frutto questo straordinario talento del figlio, facendolo conoscere alle corti e agli ambienti culturali dell'epoca. Ed ecco che dopo precedenti esibizioni fuori da Salisburgo e dall'Austria e molte difficoltà per ottenere i permessi, Leopold si riesce a mettere in viaggio con Wolfgang per una meta come l'Italia, considerata irrinunciabile per i musicisti. Cappelletto ricostruisce i viaggi mozartiani e con essi la famiglia, la vicissitudine, la personalità del padre e del figlio, la reazione di questi, gli impulsi a creare opere importantissime come per esempio l'opera Mitridate Re del Ponto, che avrebbe inaugurato a Milano la stagione del Teatro Regio Ducale, quello che poi sarebbe diventato, ricostruito la Scala, il 26 dicembre dell'anno successivo. Ma non mancano in quel viaggio anche le umiliazioni, come quando dei potenti interlocutori si rifiutarono di incontrare i due Mozart. Nel complesso il viaggio fu fortunato ed sono particolarmente interessanti, a proposito del genio giovanile di Mozart, le righe che Cappelletto dedica al fenomeno del bambini prodigio allora e oggi. Mozart però è tutt'altro che un automa, mostra, scrive l'autore, sicurezza nella valutazione dei cantanti, ironia e insofferenza per la prevedibilità della trame, fastidio per l'abitudine del pubblico di parlare durante lo spettacolo, e impara naturalmente dai musicisti che incontrerà, ma soprattutto rappresenterà la cesura tra il vecchio modo nel quale ancora si attardava l'Italia e il nuovo modo di fare musica. Per la precisione, 250 anni fa, in questi giorni, Mozart erano a Napoli, erano arrivati il 14 di maggio, furono subito invitati a pranzo da un barone, lì si sarebbero fermati 5 settimane, il 17, quindi 250 anni fa come oggi, incontravano un banchiere francese, il 18 il primo ministro Tanucci e il 19 avrebbero partecipato a una messa coi reali. Napoli all'epoca era una delle capitali europee della musica. Sono anche giornate di turismo che lasceranno un segno duraturo nell'opera di Mozart, come qui Cappelletto ci spiega. Napoli compare con la dolce forza travolgente di un ricordo erotico in Mozart in viaggio verso Praga. Il racconto di Edward Moriche, definito da Ladislao Mittner il più bel racconto dell'Ottocento tedesco. Mozart scende dalla carrozza. È una giornata calda. Lui inizia a passeggiare e si smarrisce nel parco di una villa dove è attratto con una pulsione irresistibile da un'arancia. La stacca dall'albero, la mangia e inizia a ricordare. Era accaduto a Napoli durante l'estate, tanti anni prima. Sul golfo, due barche a remi. Sulla prima, 5 ragazzi e 5 ragazze. Si avvicina alla seconda barca dove ci sono solo dei ragazzi che con grandi gesti chiamano e invitano le ragazze. La più audace si toglie una rosa dal seno e la lancia verso l'altra barca. A bordo c'è anche una cesta di arance. Una ragazza ne lancia due. I giovani maschi le afferrano e restituiscono il lancio. Il più ardito si avvicina alla barca delle ragazze, si arrampica, raggiunge la prua dove era la più bella, la gira verso di sé, l'abbraccia, la bacia. Lei non grida, non si divincola, ricambia il bacio, stringe le braccia al collo di quel ragazzo bellissimo, il corpo bagnato di acqua di mare, sudore e polpa d'arancia. Da qualche parte una piccola orchestra spuntata chissà da dove suona arie da ballo, saltarelli, canzoni. D'incanto il mondo intero sembra essersi fermato. Cessa il lancio delle arance, i ragazzi smettono di nuotare, le ragazze tacciono, come l'orchestra. Nella calma di vento anche il mare è immobile. Tutti gli sguardi rimangono fissi sui due ragazzi che continuano a baciarsi tra l'azzurro del mare e il sole che abbaglia, padroni del mondo, in un attimo di eternità felice. Era quella musica che Mozart aveva di nuovo sentito mentre ghermiva l'arancia del conte, Eros Mediterraneo. E di Mozart in viaggio verso Praga, scritto da Eduard Mörike, lo scrittore e poeta tedesco vissuto tra il 1804 e il 1875, è uscita da poco un'edizione di Eliot, 78 pagine, 8,50 euro, tradotto da Felice Filippini. In questo racconto Mozart è in viaggio appunto con la moglie verso la capitale boema per assistere alla prima del Don Giovanni. Qualche anno prima, nel 1787, la stessa città, Praga, aveva tributato un clamoroso successo a un altro capolavoro di Mozart che lì vi era stato eseguito per la seconda volta dopo Vienna. L'avrete riconosciuto naturalmente, sono Le nozze di Figaro. Abbiamo sentito alcune note eseguite dalla London Philharmonic Orchestra diretta da Bernard Haitink. E queste note ci introducono al libro della musicologa e mozartologa Lidia Bramani, autrice delle Nozze di Figaro, Mozart, massone e illuminista, pubblicato dal Saggiatore, 422 pagine, 38 euro. Un manifesto umanistico, definisce l'autrice quest'opera immortale, espressione di un Mozart tutt'altro che scrive stravagante, inconsapevole e puerile quanto geniale, come lo rappresenta un mito distorto. Quest'opera è il primo frutto della leggendaria collaborazione col librettista italiano Lorenzo da Ponte e le Nozze di Figaro sono dominate da una spinta garantista, tollerante ed egualitaria, espressione delle migliori riflessioni del tempo. Siamo appunto al 1786, l'anno della prima esecuzione a Vienna. Il libro ricostruisce il clima intellettuale molto intenso e vivace nel quale era immerso Mozart, ce ne presenta la biblioteca, ce ne descrive puntualmente l'opera, mettendone in luce alcuni punti riconducibili proprio alle tematiche politiche e sociali di cui si discuteva nei salotti in quegli anni, dai diritti di natura, all'eguaglianza, alla tolleranza e alle influenze del pensiero massonico. E adesso ascoltiamo un'esecuzione d'eccezione di Mozart. Era Arturo Benedetti Michelangeli che interpreta il concerto per pianoforte e orchestra 20 K466 di Mozart, eseguito assieme alla NDR Symphony Orchestra diretta da Kurt Garben in un'esecuzione del 1989 del grandissimo pianista. Roberto Cotroneo ci racconta la vita e l'arte nel libro Il demone della perfezione, Arturo Benedetti Michelangelo, è l'ultimo dei romantici pubblicato da Neri Pozza, 142 pagine, 16 euro. Anche Arturo Benedetti Michelangelo fu un bambino prodigio e il libro parte proprio da una cronaca estasiata del 1926 del popolo di Brescia relativa a un'esecuzione mirabolante di un Arturo di 6 anni e 2 mesi, un Arturo che secondo la leggenda aveva messo le mani sulla tastiera già a 2 anni. Ma cosa ci può dire oggi Arturo Benedetti Michelangeli, nato proprio 100 anni fa e ormai scomparso da 25? Ce lo spiega lo stesso autore nelle prime pagine del libro, dalle quali traggo queste righe. Arturo Benedetti Michelangeli è una porta di quelle che vale la pena di attraversare, perché rappresenta un mondo in parte perduto, che non è soltanto quello della musica classica, come potremmo chiamarla, ma è anche il mondo attorno a lui e soprattutto quello che c'era in lui, quella forza del talento, della perfezione, della disciplina, dell'intransigenza, tutte cose che oggi ci appaiono lesionate, irrecuperabili, lontane, a volte persino bizzarre. E allora questo piccolo libro è un libro sul genio, ma è anche un origami, un esercizio di meditazione, uno studio di esecuzione trascendentale, per immergersi nella musica che possa aprirci gli occhi di quel poco che serve per ritornare a capire e non perderci. Cotroneo ci fa conoscere la personalità complessa di Arturo Benedetti Michelangelo, un uomo ossessivo nella ricerca della perfezione, che ha vissuto l'intero ciclo delle riproduzioni del suono, dal grammofono al digitale. Arturo Benedetti Michelangelo, scrive l'autore, era un uomo allegro e spericolato, distratto e curioso. Ma il suono no, quello era sacro, nel senso vero e proprio del sacrificio. E l'analisi procede anche attraverso la storia di alcune tra le sue esecuzioni leggendarie, nonché i difficili rapporti che con l'artista ebbero grandi direttori che non ne condividevano certe esecuzioni, per esempio quella proprio di Mozart, che Arturo Benedetti Michelangelo suonava, secondo Cotroneo, in modo quasi raggelante, senza certe frivolezze mozartiane che non si addicevano alla figura tragica che Wolfgang Amadeus aveva davvero. Insomma, un viaggio in una genialità fragile, così definisce Cotroneo, argomentando Arturo Benedetti Michelangeli. E a questo punto... Il confettino. Naturalmente restiamo su Mozart, sono molti libri per bambini e ragazzi, di uno avevo già parlato, Wolfgang Amadeus Mozart, il genio sempre giovane del pianista Ramin Barami, pubblicato da Nave di Teseo, 15 euro, il più recente è Ma chi era Wolfgang Amadeus Mozart di Luca Poli, pubblicato da Franco Cosimo Panini, 80 pagine, 9 euro. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Cosa resterà di questa emergenza? Siamo davvero cambiati? Anche l'economia delle piccole cose guarda avanti. Tra conti da far quadrare e nuove abitudini da imparare. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato alle 7:15 qui su Radio 24 per ripartire insieme. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domani ricorderemo il centenario della nascita di uno dei giganti del Novecento. Lo riconoscerete subito da queste parole che diventarono immediatamente memorabili. Se mi sbaglio mi corrigerete. Era Carlo Wojtyła, naturalmente, un grande testimone della fede, un grande uomo di preghiera che ha vissuto completamente immerso nel suo tempo e costantemente in contatto con Dio, una guida sicura per la Chiesa in tempi di grandi cambiamenti. Così lo ricorda il suo successore Papa Francesco nella prefazione al libro San Giovanni Paolo II, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, 128 pagine, 7 euro, che presenta il pontificato di Wojtyła attraverso le sue parole e le immagini più significative di quel lungo periodo. E lo stesso Papa Francesco pubblica San Giovanni Paolo Magno, pubblicato da San Paolo, 128 pagine, 12 euro, frutto di una conversazione con un giovane prete, Luigi Maria Epicoco. Invece Ancora pubblica di Renzo Allegri, giornalista, critico musicale, che ha dedicato molta parte della sua attività professionale a seguire Giovanni Paolo II nei suoi viaggi, e il titolo è Il Papa di Fatima, vita di Karol Wojtyła, 344 pagine, 25 euro, che aggiorna un'edizione precedente che era uscita con Mondadori dopo la morte di Wojtyła avvenuta 15 anni fa. Il Papa dei Record lo presenta Allegri con queste parole: è stato il primo papa polacco della storia, il primo non italiano dopo 450 anni, il primo papa proveniente da un paese comunista, il primo e unico papa ad aver visitato nazioni ancora sotto il regime ateistico, il primo ad aver voluto entrare da papa in una sinagoga, ad aver parlato in una chiesa protestante, a essere andato a visitare una moschea, ad aver visitato un paese ortodosso. Il primo papa che abbia voluto assistere a un concerto rock in suo onore e a una partita di calcio. Il primo che abbia voluto farsi operare in un ospedale, come un malato qualunque. Non è vissuto, come era consuetudine, dentro le mura del Vaticano. È stato sempre tra la gente, tra i fratelli, come non era mai accaduto per nessun pontefice, per nessuna persona. Anche la sua permanenza sul trono di Pietro è stata da record. Giovanni Paolo ha regnato per 26 anni, 5 mesi e 17 giorni, risultando per durata di tempo il secondo, escluso San Pietro, nella storia della Chiesa, dopo Pio IX. E in tutto questo tempo non si trova un giorno, un solo giorno, in cui Wojtyła non abbia inventato qualche cosa per attrarre l'attenzione della gente su Dio, su Gesù, sull'aldilà, sulla vita eterna, il regno cui sono destinati tutti gli esseri viventi, stabilendo, anche in questo, un record di zelo apostolico degno dei più grandi santi della storia. Dinanzi a questo turbinio di presenze e di eventi, che cosa c'è da aggiungere, si chiede l'autore. Per rispondere, sottolinea l'aspetto ricordato anche da Papa Francesco, quello mistico, rimasto piuttosto nell'ombra per scelta anche dell'interessato. Questo aspetto si ricollega con la missione che Wojtyła sentiva di dover svolgere e che a sua volta trovava un'espressione importante nel rapporto tra Wojtyła e la Madonna di Fatima, dalla quale il Papa conobbe di essere stato salvato nell'attentato del 13 maggio del 1981 e della quale Madonna di Fatima rivelò nel 2000 il cosiddetto terzo segreto che aveva confidato ai pastorelli ai quali era apparsa a partire dalla stessa data di molti anni prima, cioè il 13 maggio del 1917. L'autore rilegge la vita di questo segreto, la vita di San Giovanni Paolo II, secondo una chiave di lettura che il segretario di Wojtyła, il futuro cardinale Jewish, considera una buona intuizione. E un'interessante guida al pensiero di San Giovanni Paolo II troviamo nel libro di uno stretto collaboratore, l'arcivescovo Rino Fisichella, teologo, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, nonché autore di Dentro di me il tuo nome, la teologia di Giovanni Paolo II, pubblicato da San Paolo, 336 pagine, 25 euro, che inaugura una nuova collana dedicata alle tappe fondamentali del pensiero teologico. Il titolo di questo libro è tratto da un verso dell'ultima opera poetica di Wojtyła, il Trittico Romano. Il libro non è una biografia ma un'analisi del suo insegnamento a partire dalle encicliche. Un confronto suggestivo tra Wojtyła e il suo successore Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, che del primo era stato il più stretto collaboratore, è tratteggiato in queste righe. Joseph Ratzinger è stato l'equivalente nella Chiesa di Václav Havel e di Alexander Solzhenitsyn, un dissidente delle ortodossie dominanti, bandito per la sua narrazione della verità. Ratzinger era un diverso tipo di dissidente. Gli altri, spinti nella clandestinità da regimi la cui tirannia era diventata incontrovertibile, sono diventati, almeno per un certo tempo, eroi inequivocabili per i loro popoli e tempi. Ratzinger era la voce profetica dell'inquietudine umana e di un futuro oscuro. Giovanni Paolo II, come Papa Francesco, parlava alle folle, Benedetto XVI alle persone. Giovanni Paolo II, il grande papa populista, attirava moltitudini di curiosi e affamati di essere sollevati e affascinati. Benedetto XVI era l'inviato, l'interprete, il persuasore, il profeta. colui che portava le persone ad approfondire i suoi libri nella fiduciosa speranza di avere una risposta alle loro domande. Wojtyla era la finestra attraverso la quale guardavano per vedere come poteva apparire Dio. Ratzinger era il vigile del fuoco che si arrampicava sul cornicione della disperazione per far scendere lo scettico. Queste parole sono di John Waters, un giornalista irlandese noto per le sue posizioni spesso controcorrenti, come la forte opposizione a Internet, che ha scritto la prefazione al libro del giornalista Giulio Meotti, L'ultimo Papa d'Occidente, col punto interrogativo, e pubblicato da Liberi Libri, 108 pagine, 14 euro. E questo è un libro decisamente ratzingeriano, nel senso di individuare in quella che sarebbe diventato Benedetto XVI l'ultimo coraggioso esponente di una cultura che lo stesso Ratzinger definiva in un discorso al Parlamento tedesco del 2011 con queste parole: la cultura dell'Europa è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma, tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei greci e il pensiero giuridico di Roma. Questo triplice incontro forma l'intima identità dell'Europa. E questa cultura, secondo Ratzinger, si starebbe suicidando in preda a un'autentica desertificazione spirituale. Secondo l'autore, a opporsi a questa deriva, Benedetto XVI ha dedicato tutto se stesso, ammonendo contro un nichilismo dilagante che assume le forme di un autentico totalitarismo definito soffice, seducente, apparentemente benigno. E allora, Ratzinger, si chiede l'autore, sarà ricordato dalla storia come l'ultimo Papa di un Occidente che coltiva in sé, scrive, una fortissima insicurezza culturale? Certamente è stato un Papa tutt'altro che retrogrado e custode di una tradizione obsoleta, scrive Meotti. Anzi, è stato ossessionato dal declino del cattolicesimo e dall'avanzata del nichilismo. E secondo Meotti, Ratzinger aveva previsto tutto, dimostrandosi un autentico anticonformista del pensiero, così definiva un giornale tedesco. La battaglia di Ratzinger non ha avuto successo, riconosce Meotti, ma la sua lezione continua a ricordare che se la cultura occidentale, lo cito, continuerà a scivolare nelle sabbie mobili dello scetticismo e del relativismo postmoderno, l'Occidente non sarà in grado di difendersi. Per illustrare il misticismo di Wojtyła, Allegri nel suo libro ricorda l'interpretazione di San Tommaso e di altri teologi contemporanei a lui, per i quali la mistica era l'esperienza di incontro immediato e totalizzante con Dio. E di San Tommaso esce una biografia romanzata di Laura Corsini, scrittrice bibliotecaria, intitolato La bellezza del mondo, San Paolo, 272 pagine, 18 euro. Questa è una buona occasione per riavvicinarsi a uno dei giganti della filosofia del pensiero occidentale, la cui vita viene qui raccontata da un frate Carlo che si presenta al processo che si svolse a Napoli per la canonizzazione del grande teologo, dove egli racconta le proprie esperienze e la vita del santo monaco. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Michele Previati in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.